Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Visto e considerato che circola una falsa dottrina in merito allo stato di coloro che sono morti in Cristo, voglio confutarla, perché chiaramente le false dottrine vanno confutate. Non bisogna rimanere indifferenti davanti alle false dottrine, bisogna confutarle pubblicamente ed anche privatamente, sempre mediante le sacre scritture. Ora, questa falsa dottrina dice sostanzialmente che i morti in Cristo non sono col Signore Gesù. Sì, avete sentito bene? Questa falsa dottrina afferma che coloro che muoiono in Cristo non vanno col Signore Gesù. Allora qualcuno dirà, e dove vanno allora? Allora, secondo i sostenitori di questa falsa dottrina, vanno in un luogo d'aspettazione, in una sorta di sala d'attesa, dove quindi non c'è il Signore Gesù. Ora, voglio confutare questa falsa dottrina perché ritengo veramente che sia perniciosa, diabolica. Perché cioè, è inconcepibile che dei cristiani, o comunque presunti tali, sostengano questa cosa. Perché? Ma perché la Sacra Scrittura, in merito a dove vanno coloro che muoiono in Cristo, è chiara. Vanno ad abitare con il Signore. Allora, vediamo cosa c'è scritto nella seconda epistola di Paolo ai Santi di Corinto. Seconda epistola di Paolo ai Santi di Corinto. Leggerò dal capitolo 5, quindi secondo Corinzi capitolo 5. Allora, noi sappiamo, dice l'Apostolo Paolo, infatti, che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Poiché in questa tenda noi gemiamo, bramando di essere sopravvestiti della nostra abitazione, che è celeste. Seppur saremo trovati vestiti e non ignudi, poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo, aggravati, e perciò desideriamo non già ad essere spogliati, ma ad essere sopravvestiti. Onde ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci ha formati per questo stesso è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo, siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione. Ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Ed è perciò che ci studiamo d'essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Poiché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quello che avrà operato, o bene o male. Ora vorrei che notaste che l'Apostolo Paolo dice che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Che cosa significa che siamo assenti dal Signore? Che non siamo con il Signore. E questo, diciamo, fino a che noi abiteremo nel corpo. Voi sapete che il corpo che il Dio ci ha dato è una tenda. Allora, mentre noi abitiamo in questa tenda, che si va disfacendo giorno dopo giorno, noi siamo assenti dal Signore. Ecco perché poi, subito dopo, l'Apostolo dice, ma siamo pieni di fiducia. Notate, quel ma è molto significativo, perché indica che questa assenza dal Signore durerà solamente fino a che noi abiteremo nel corpo. nel momento in cui ci dipartiremo dal corpo, noi saremo col Signore, o meglio, abiteremo col Signore. Infatti, ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo. Ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Dunque, qua Paolo parla di un partire dal corpo. Prima ha parlato dell'abitare nel corpo e qui parla di un partire dal corpo. Quindi, mentre noi siamo in vita, noi abitiamo nel corpo. Quando moriamo, noi ci dipartiamo dal corpo, o meglio, partiamo dal corpo. Ma che cosa dice l'Apostolo? Abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Questo significa che quando noi lasceremo questo corpo, perché ci partiremo da esso, e questo naturalmente è Dio che lo stabilisce, Dio stabilisce il giorno, il modo e anche il luogo. Ora, quando noi partiremo dal corpo, andremo ad abitare con il Signore. E cosa certa questa? Non è qualcosa, diciamo, che può lasciare qualche dubbio. Le parole hanno un significato come hanno un peso. E le parole dell'Apostolo Paolo sono estremamente chiare. Allora, voglio farvi notare anche che lo stesso Apostolo ai Santi di Filippi gli dice queste parole. Allora, dice capitolo 1, versetto 23. Io sono stretto dai due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché cosa di gran lunga migliore. Ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi. Ora, ho il desiderio di partire. Da dove? Partire da dove? Quando si parte, si deve partire, no? Da qualche parte. Dal corpo. Infatti abbiamo visto nella seconda epistola di Paolo ai Santi di Corinto che lui parla di partire dal corpo. Quindi, l'Apostolo sta dicendo che ha il desiderio di partire dal corpo ed essere con Cristo. Qui vedete che usa il verbo essere. Là invece ai Corinzi il verbo abitare. Quindi, se Paolo aveva il desiderio di partire ed essere con Cristo, vuol dire che lui credeva che quando si sarebbe dipartito dal corpo sarebbe andato ad abitare con il Signore e quindi lo avrebbe visto, certo. Anche perché dice, e cosa di gran lunga migliore, ecco perché aveva il desiderio di partire Paolo, ed essere con Cristo, perché andare con Cristo è cosa di gran lunga migliore che rimanere sulla terra. Sulla terra non c'è un posto, diciamo, che possa essere paragonato al paradiso di Dio, al regno dei cieli, il più bel posto che esiste sulla faccia della terra. Che vi posso dire io? Prendete questi luoghi esotici, no? Che vengono tanto pubblicizzati per la loro bellezza, nulla da dire sulla bellezza naturalmente di questi posti, anche perché li ha fatti Dio questi luoghi, ma non c'è veramente, non c'è paragone. Ma non c'è paragone, il cielo, fratelli del Signore, è il luogo dove veramente c'è la gloria di Dio, dove c'è la pace e dove veramente non c'è più alcuna sofferenza, non c'è più alcuna sofferenza in cielo. Allora, quale luogo d'aspettazione, quale sala d'attesa? Gli apostoli non credevano in questa appunto dottrina che circola nelle chiese, tra cui anche le chiese pentecostali, un certo numero di chiese pentecostali. Guardate voi che cosa siamo costretti a sentire con le nostre orecchie e quindi a dover fare, a confutare una falsa dottrina che anche un bambino, credetemi, capisce che è una falsa dottrina. Io ricordo quando il Signore mi ha salvato, una cosa che dicevo quando evangelizzavo, non che non lo dica adesso, ma diciamo che nell'immediatezza della mia conversione, una cosa che ripetevo a tutti quelli che evangelizzavo e che ci tenevo a sottolineare, a enfatizzare, era che io gli dicevo, io se dovessi morire, mi ricordo ancora, se dovessi morire in questo momento, io vado ad abitare con il Signore in cielo. Ma perché? Ma perché questo è sempre stato il credo dei cristiani. Però, sapete, in mezzo alla Chiesa vengono introdotte false dottrine di ogni genere. E allora, naturalmente, una volta che ci accertiamo che sono state introdotte, noi le distruggiamo. Le distruggiamo. Noi non distruggiamo quelli che insegnano false dottrine, distruggiamo le false dottrine. Quindi Paolo dice, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo. Allora, vi voglio anche leggere alcune parole di Gesù che Gesù pronunziò nella notte in cui fu tradito. Allora, quando pregò il Padre, ascoltate che cosa ha detto Gesù, il Figlio di Dio. Allora, capitolo 17 di Giovanni, versetto 24. Padre, io voglio che dove sono io siano meco anche quelli che tu mi hai dati, affinché veggano la gloria che tu mi hai data, poiché tu mi hai amato avanti la fondazione del mondo. Ora notate la richiesta di Gesù che fece al Padre. È una richiesta, naturalmente, che è stata esaudita e viene esaudita. Perché quello che Gesù ha chiesto al Padre è in accordo con la volontà del Padre. Allora Gesù dice, io voglio che dove sono io siano meco, cioè siano con me, anche quelli che tu mi hai dati. Ora, dove sono io? Il Signore già, diciamo, parlava come se fosse già tornato al Padre in cielo. Voi sapete che Gesù, dopo essere risuscitato dai morti, apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. E dopo diversi giorni fu assunto in cielo, nei luoghi altissimi, alla destra del Padre. Ecco dove è Gesù. Se qualcuno vi chiede, ma dov'è Gesù adesso? Dov'è Gesù? Dov'è Gesù? Gesù è in cielo, alla destra del Padre. Allora Gesù ha detto al Padre, io voglio che dove sono io siano meco anche quelli che tu mi hai dati. Per quale ragione? Affinché veggano la gloria che tu mi hai data. Perché Gesù è entrato nella sua gloria dopo aver sofferto. Perché così Dio aveva prestabilito in merito al suo Cristo. Cioè prima doveva soffrire e poi doveva entrare nella sua gloria. Infatti è entrato nel regno dei cieli, si è seduto alla destra del Padre, dove intercede per noi. È là Gesù. E poi voglio farvi notare questo, ascoltate. Gesù ha detto anche queste parole, sono scritte nel capitolo 12 di Giovanni. Capitolo 12 di Giovanni. 12, versetto 26. Se uno mi serve, mi segua. E là dove sono io, qui vi sarà anche il mio servitore. Avete notato? Ancora una volta, là dove sono io. Dov'è Gesù? È in cielo, in paradiso, nei luoghi altissimi. E là sarà anche colui che lo serve. Quindi, coloro che servono il Signore, quando muoiono, vanno in cielo ad abitare con il Signore e vedono il Signore. Sono con Lui, sono con Cristo. Ma altrimenti non avrebbe senso quello che ha detto l'Apostolo Paolo, il desiderio di partire ed essere con Cristo. Cioè, io talvolta dico, ma io credo che alcuni dovrebbero andare anche a lezione di italiano, della lingua italiana, perché non riescono a capire nemmeno le frasi, diciamo, più semplici. più semplice. Cioè, l'italiano è chiaro, l'italiano nel senso, la Bibbia è stata, la nostra Bibbia è stata tradotta in italiano, ce l'abbiamo in italiano, ma, cioè, voglio dire, è stata tradotta fedelmente, in massima parte, perché qualche parte che non è stata tradotta fedelmente nella Luzzi c'è. Ma voglio dire, ma è chiaro qua cosa dice il Signore, là dove sono io, qui vi sta anche il mio servitore. Quindi, Gesù è alla destra del Padre, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti, e là ed intercede per noi, e là saranno tutti coloro che lo servono. Quindi quando avviene questo? Quando muoiono appunto coloro che si dipartono, con i servitori del Signore, quando si dipartono dal corpo, vanno ad abitare con il Signore. E a conferma di ciò voglio leggervi anche queste parole che sono scritte nell'Apocalisse, cioè nel libro della Rivelazione. Ascoltate qua che cosa c'è scritto. Al capitolo 6, dal versetto 9, Apocalisse. E quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa. E gridarono con gran voce dicendo: fino a quando, nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudicio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? E a ciascun d'essi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro. Allora, notate come qui siamo davanti a una visione. E che cosa vide in questa visione Giovanni? Vide sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano reso. Quindi, qui parla di anime. Di anime. Allora, i corpi di costoro erano rimasti sulla terra, ma le anime dove erano andate? Erano andate in cielo. Ed erano dove? Sotto l'altare. Allora, l'altare. Questo altare qua, sapete qual è? È l'altare d'oro. E di esso parla Giovanni nell'Apocalisse. Al capitolo 9, versetto 13, quando dice: poi il sesto angelo sonò e io udì una voce dalle quattro corna dell'altare d'oro che era davanti a Dio. Allora, l'altare di cui parla qua Giovanni è l'altare d'oro che è davanti a Dio. Dove vide le anime di costoro? Dove le vide? Le vide sotto l'altare. Quindi? Le vide in una sala d'attesa? In un luogo d'aspettazione dove non c'era il Signore, no, davanti a Dio. Considerate che alla destra di Dio c'è Gesù. E allora, vedete quante conferme ci sono nella Sacra Scrittura, diciamo, in merito allo stato dei morti in Cristo. Allora, vedete, queste anime erano sotto l'altare e gridavano: fino a quando, nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudice, non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? Ecco, questa era la richiesta, la domanda che fece. Guardate cosa c'è scritto: ciascun d'essi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po'. Questo significa che già si stavano riposando, però dovevano riposarsi un altro po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro. Quindi ci sono servitori di Dio, nostri fratelli, che devono essere uccisi. Devono essere uccisi come furono uccisi costoro. Guardate, fratelli, anche sul merito alla morte dei santi, è Dio che stabilisce tutto, eh? Non avviene niente per caso, ma proprio niente. Queste parole lo fanno capire. Chi hanno ad essere uccisi come loro. Sì. Certo, non tutti i santi vengono uccisi a motivo dell'Evangelo, non tutti. Però una parte di essi è destinata ad essere uccisa appunto come, diciamo, costoro le cui anime furono viste da Giovanni sotto l'altare, davanti a Dio, l'altare è davanti a Dio. In cielo! Noi andremo in cielo, nella gloria, quando moriremo. Questo noi affermiamo con piena certezza di fede, con gran pienezza di convinzione. E io vi esorto a non farvi sedurre da vani ragionamenti, perché comunque sia, le false dottrine vengono sempre sostenute con vani ragionamenti, non solo con vani ragionamenti. Questi vani ragionamenti vengono fatti attorno a degli specifici versetti della Scrittura, che secondo gli eretici, secondo i bugiardi, hanno quel significato, ma non hanno quel significato. Per esempio, quando Gesù disse il Padre è maggiore di me, cosa volle dire? Che lui non era Dio? Ma così non sia. Eppure ci sono coloro che, appoggiandosi a queste parole di Gesù, il Padre è maggiore di me, hanno creato un'eresia, che è l'eresia che nega la divinità del nostro Signore Gesù Cristo. Ma potrei farvi anche tanti altri esempi. Per esempio, ci sono coloro che quando leggono qui negli Atti degli Apostoli queste parole, stiamo parlando della morte di Stefano. Voi sapete che fu lapidato dai giudei a motivo della fede in Cristo. Ascoltate cosa c'è scritto. Poi, postosi in ginocchio, gridò ad alta voce: Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo, si addormentò. Ora c'è scritto: si addormentò. Non c'è scritto morì, c'è scritto che si addormentò. Ora, che cosa fanno taluni? Prendono queste parole assieme ad altre, dove la morte, altre parole della Bibbia, dove la morte è rappresentata come un sonno, o comunque il morire come un addormentarsi. E dicono, vedete, quando si muore ci si addormenta, non si sa più niente, si entra in uno stato di incoscienza. Ma quale stato di incoscienza? La Sacra Scrittura dice che appunto i santi quando muoiono non entrano in uno stato di coscienza, ma coscientemente si ritrovano con Cristo. Allora è molto importante, io ve l'ho spiegato tante volte, quando qualcuno vi cita la Scrittura, è molto importante esaminare il significato che dà quella Scrittura, perché sapete, chiunque può citare la Scrittura, un versetto biblico, voi trovate testimoni di Geova che citano versetti biblici, mormoni, mariani, che vi posso dire io? Ma gnostici pure citano versetti della Scrittura. Eretici di ogni genere. Allora, il discorso qual è? Il versetto in se stesso è giusto, non c'è niente da dire, bisogna dire solo amen al versetto biblico, ma attenzione, quello che non si può dire amen al significato che gli danno costoro, capite? Quindi, vedete, la Sacra Scrittura è la parola di Dio, è ispirata da Dio, e Dio ha voluto che fosse scritta in una particolare maniera. La Bibbia non è un libro qualsiasi o come tanti altri, la Bibbia è unico anche nel modo in cui le cose sono scritte. Allora, bisogna stare molto attenti, perché i bugiardi, i seduttori di menti, i ribelli, i cianciatori, che cosa fanno? Citano la Scrittura, ma la citano per ingannarvi, per portarvi fuori strada, per portarvi contro la verità. Qualcuno dice, ma com'è possibile? Eh sì, ma è questa l'astuzia del serpente antico, cioè riuscire a, a prendere un versetto della Scrittura per andare contro la verità. Vi faccio un esempio, Gesù, quando fu tentato, allora, leggiamo, ascoltate. Allora il diavolo lo menò secco nella santa città e lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto, e gli darà ordine ai suoi angeli intorno a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, che talora tu non urti col piede contro una pietra. Gesù gli disse: egli altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Allora, fratelli, notate che il diavolo citò la scrittura, la citò. Ma Gesù, avvedutosi della trappola che l'avversario gli tendeva, gli rispose, appunto, cioè si oppose al diavolo e gli citò un versetto della scrittura, che è il seguente: non tentare il Signore Dio tuo. Quindi Gesù con questa risposta che cosa ha, diciamo, confermato? Che il diavolo, quando cita le scritture, lo fa sempre per farti violare un comandamento di Dio, o comunque per farti andare contro la verità. Guardate, io nel corso di questi decenni, durante i quali Dio mi ha dato la grazia di confutare tante eresie distruttive, mi sono proprio accorto di questa macchinazione del diavolo del continuo. Ma per esempio quando ho studiato i mormoni, ma anche quando ho studiato i testimoni di Geova e anche il cattolicesimo, ma anche quando ho studiato l'avventismo del settimo giorno e così via. Cioè, guardate che il diavolo è astuto, il serpente antico astuto, sedusseva con la sua astuzia e riesce, non con tutti, ma con alcuni, con molti ci riesce, cioè riesce a far credere che un'eresia è stata insegnata da Gesù o dall'Apostolo Paolo. Ma voi lo sapete che gli eretici sostengono che Gesù insegnava la reincarnazione. E sapete che cosa, su che cosa si appoggiano? Si appoggiano sulla risposta che Gesù diede ai suoi discepoli quando gli fecero questa domanda. Dice, è scritto in Giovanni capitolo 9, e passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita, i suoi discepoli lo interrogarono dicendo: maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sei nato cieco? Gesù rispose: né lui peccò, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Ora, quel né lui peccò, secondo gli eretici, significa che Gesù credeva nella reincarnazione. Capite? O anche quando, prendono per esempio un altro versetto, ma questo vi faccio degli esempi per farvi capire veramente come i figli e servi del diavolo siano astuti. Capite? Allora, ascoltate qua. Per esempio, c'è scritto in capitolo 17 di Matteo, dopo che sono scesi dal monte, poi dal monte della trasfigurazione, poi mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro, Gesù diede loro quest'ordine: non parlate di questa visione ad alcuno finché il figlio dell'uomo sia risuscitato. E i discepoli gli domandarono: perché dunque dicono gli scribi che prima deve venire Elia? Ed egli rispondendo disse loro: certo Elia deve venire e ristabilire ogni cosa, ma io vi dico che Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto, così anche il figlio dell'uomo ha da patire da loro. Allora i discepoli intesero che era di Giovanni Battista che gli aveva loro parlato. Ora, in base a queste parole scritte in Matteo, gli eretici dicono: vedete, Gesù credeva nella reincarnazione, Gesù credeva che Giovanni Battista fosse la reincarnazione di Elia. Ma ditemi una cosa. Ma come leggete che Elia è morto? A parte il fatto che la reincarnazione, partiamo dal presupposto che la reincarnazione è un'eresia, è una menzogna, ma la reincarnazione presuppone la morte di colui che poi si va a reincarnare. Ma perché Elia è morto? Non risulta dalla Bibbia che Elia sia morto. Elia fu preso su nel cielo, eh? Salì in cielo. Quindi vedete come rimangono confusi questi i reincarnazionisti. Eppure i reincarnazionisti citano le scritture per sostenere che Gesù credeva e insegnava la reincarnazione. D'altronde, secondo loro, era anche un maestro gnostico, per cui non è che ci dobbiamo meravigliare. A tale proposito vi ricordo che Giovanni Battista non era Elia, perché c'è scritto in Giovanni quanto segue, che questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli: tu chi sei? Egli lo confessò e non lo negò, lo confessò dicendo: io non sono il Cristo. Ed essi gli domandarono: chi dunque sei, Elia? Ed egli rispose: non lo sono. Allora, fratelli, se è vero che Giovanni il Battista non era il Cristo, deve essere per forza vero anche che lui non era Elia, non vi pare? Ha detto la verità Giovanni il Battista, era un uomo ripieno dello Spirito Santo, fin dal seno di sua madre, non ve lo dimenticate. E allora, fratelli, vedete come la scrittura poi, quando viene citata malamente con l'intento di ingannare il prossimo, poi il Signore suscita qualcuno che smaschera quella eresia. Quindi, perché vi ho fatto, aperto questa parentesi? Per farvi capire, fratelli, che dovete stare molto attenti. Dovete stare molto attenti, perché gli eretici, la menzogna ve la inseriscono di soppiatto nei loro discorsi. E se non siete esercitati, se non avete i sensi esercitati a discernere il bene dal male, la verità dalla menzogna, guardate che vi mettono nella loro trappola, perché sono astuti, capite? Sono astuti. Avete mai incontrato una persona astuta? Ecco, la persona astuta è furba, cerca appunto di gabbarvi, ecco, così sono gli eretici, cercano di gabbarvi, citando che cosa? Le scritture, per avvalorare le loro eresie. Allora, vi stavo dicendo che io nel corso di questi decenni, ma veramente ho trovato, in tutte le sette, anche le sette gnostiche, persino negli scritti teosofici, allora, ho trovato veramente versetti della scrittura che, quando erano citati correttamente non potevi assolutamente dire niente. Però il significato che veniva dato a quei versetti era veramente un significato estraneo, era un significato che andava contro la verità. Quindi, siccome che quelli che cercano di gabbarvi non è che vengono a dirvi: guardate, io sono qua per cercare di ingannarti, no, non ve lo dicono. Ah, vi diranno che loro vogliono edificarvi, vogliono incoraggiarvi, vogliono esortarvi, per il vostro bene. Poi addirittura dicono che l'amore loro è con voi, no? Ma loro non hanno alcun amore, figuratevi se questi hanno amore. Ma quale amore? Questi hanno solo odio nel loro cuore. Perché sono quelle persone che la scrittura definisce scellerati, che torcono le scritture a loro perdizione, falsano il senso di quello che è scritto. E chi è che può falsare il senso di quello che è scritto se non una persona malvagia? Ma, fratelli, io ve l'ho detto spesso, guardate che quando noi leggiamo la Bibbia, stiamo leggendo la Sacra Scrittura, gli scritti sacri che sono parola di Dio, non sono parola d'uomini. E chi adultera la parola di Dio, chi vi aggiunge alcunché o vi toglie, chi torce la parola di Dio, il Signore gli farà trovare il salario della sua condotta malvagia, e noi lo stiamo vedendo. Il Dio sta colpendo coloro che adulterano la parola di Dio, che torcono le scritture a loro petizione, li sta colpendo. Certo, loro non me lo vengono a dire che Dio li sta colpendo. Loro vi diranno che il diavolo li sta attaccando, figuriamoci. Allora, sono molto bravi, gli eretici sono molto bravi a fare le vittime quando vengono smascherati. Quindi il mio discorso ha lo scopo di farvi capire che non perché qualcuno c'ha una Bibbia in mano o perché qualcuno cita dei versetti della scrittura vuol dire che voi dovete poi accettare tutte le spiegazioni che egli dà in merito a quei versetti. Perché dovete stare molto attenti, esaminare le scritture per vedere se le cose stanno così. Perché, diciamo spesso, molto spesso, vi devo dire, nei loro discorsi, praticamente vengono inserite eresie di perdizione. Ma d'altronde, come vi ho anche già fatto notare diverse volte, ma voi vi rendete conto che gli eretici che ci sono in mezzo alle chiese sono riusciti arrivare alla conclusione che Gesù non è stato ucciso da nessuno? E in base a che cosa? In base a che cosa? Su quale versetto della scrittura si appoggiano per dire che Gesù non è stato ucciso da nessuno? Su questo. Gesù ha detto: per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho potestà di deporla, ho potestà di ripigliarla, questo ordine ho ricevuto dal Padre mio. Ora, ma vi rendete conto che cosa costoro, quale insegnamento diabolico hanno tratto da queste parole? Ma queste parole non hanno mica il significato che gli danno costoro che Gesù non è stato ucciso da nessuno. I giudei hanno ucciso Gesù. La scrittura dice questo, però loro, vedete, dicono: ma è scritto. Addirittura ci sono quelli che dicono che Gesù si è suicidato, proprio citando queste parole di Gesù. Ora, vedete dunque quanto sono astuti i servi del diavolo? D'altronde sono servi di colui che è il calunniatore, servi di colui che è l'avversario. L'avversario, Satana significa avversario. L'avversario naturalmente, se è l'avversario di Dio, ma naturalmente è l'avversario anche della parola di Dio. Perché i nemici di Dio sono anche nemici della sua parola, per forza di cose, e sono nemici in particolare dell'Evangelo, della gloria del beato Dio. È lì che appunto i nemici di Dio, quando sentono predicare l'Evangelo della grazia di Dio, è lì che veramente si infuriano, il sangue gli va al cervello e sono capaci di dire le cose le più assurde e diaboliche. Quindi, fratelli, vedete, state molto attenti, perché quando incontrerete adesso qualcuno che vi dirà: ma no, ma noi quando moriremo non andremo ad abitare con il Signore, andremo in una sala d'attesa, in un'anticamera del cielo. Pensate un po' voi cosa si sono inventati questi, l'anticamera del cielo. Allora sapete come rispondergli: prendete le sacre scritture, la parola di Dio, voi sapete che fa parte dell'armatura, della completa armatura di Dio, della quale noi ci dobbiamo rivestire per combattere contro chi, fratelli? Contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono in luoghi celesti. Avete visto quanti nemici abbiamo? Ma guardate che ne abbiamo tanti di nemici, Sono nemici spirituali. Allora, della completa armatura di Dio fa parte anche la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, la spada. La spada praticamente ha una funzione sia difensiva che anche offensiva. E quindi è molto importante conoscere la parola di Dio per turare la bocca a coloro che appunto seducono le menti. Sono chiamati seduttori di menti, attenti a questa espressione, seduttori di menti, perché il loro obiettivo è sedurre la mente, perché una volta che si seducono la mente di una persona, poi praticamente gestiscono quella persona a loro piacimento, ne possono fare quello che vogliono, però attenzione, non riusciranno a sedurre le menti di coloro che sono attaccati alla parola di Dio, di coloro che sono rivestiti della completa armatura di Dio. Anzi, si vedranno veramente arrivare dei colpi terrificanti con la parola di Dio, che distruggerà tutte le loro menzogne. Perché, fratelli del Signore, noi dobbiamo essere coraggiosi e appunto levarci in favore della verità. E quindi quando ci si leva in favore della verità, ci si leva contro la menzogna. Dice l'Apostolo Paolo, sebbene camminiamo nella carne, non combattiamo secondo la carne, infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze, poiché distruggiamo i ragionamenti di ogni altezza che si eleva contro la alla conoscenza di Dio. E facciamo prigione ogni pensiero traendolo all'ubbidienza di Cristo. Notate cosa distruggiamo noi? I ragionamenti ad ogni altezza che si leva contro la conoscenza di Dio. Quindi coraggio, siate forti, non vi perdete d'animo, e investigate sempre le scritture, siano veramente oggetto della vostra meditazione, siano oggetto sempre del vostro studio, prendete il vostro diletto nelle sacre scritture, ve ne troverete bene, fratelli, perché quando vi troverete davanti, diciamo, l'eretico di turno, perché tanto prima o poi un eretico lo dovrete incontrare, anzi già li avete incontrati, e voi appunto, finché sappiate come rispondere con le sacre scritture, con la saggezza che Dio dona. Quindi siate forti, fortificate le vostre mani in questa guerra, che è appunto la buona guerra, ed è una guerra di cui già noi conosciamo l'esito, cioè la vittoria è nostra, perché noi siamo appunto in Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.